sei tu. dove sei? Qua. Contro lì. Stiamo dando un ordine a uno che colando per più da dare. Sei da zero da dare, un ordine a uno con dia.